Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Il giorno dopo fu un'altra giornata splendida e la comitiva la dedicò a un'escursione nelle vicinanze. Partirono alla mattina di buon'ora, alcuni a cavallo e il resto in carrozza. Assistetti sia alla partenza sia al ritorno. Come il giorno prima, l'unica donna a cavallo era la signorina Ingram e come il giorno prima, il signor Rochester galoppava al suo fianco. I due si tenevano un po' discosto dagli altri. Lo feci notare alla signora Fairfax, che era alla finestra con me. «Secondo voi è improbabile che pensino a sposarsi?» dissi. «Eppure è evidente che il signor Rochester preferisce lei a tutte le altre signore?» «Direi proprio di sì, è chiaro che ha molta ammirazione per lei.» «E la cosa è reciproca», aggiunsi. «Guardate come lei piega la testa verso quella di lui quando fanno conversazione. Come se fossero in grande confidenza. Mi piacerebbe vederla in faccia, non ne ho ancora avuto l'occasione.» «La vedrete questa sera», rispose la signora Fairfax. «Ho detto al signor Rochester quanto ci teneva Adele a essere presentata alle signore. Lui ha detto: ah, lasciatela venire in salotto dopo pranzo e chiedete alla signorina Eyre di accompagnarla.» «Sì, ma l'avrà detto per pura cortesia. Certo, non occorre che ci sia anch'io», risposi. «Sì, gli ho fatto osservare che non siete abituata a stare in società e probabilmente non vi sareste trovata bene in mezzo a tutte queste persone allegre e oltretutto estranee.» Ma lui, nel suo solito modo sbrigativo, mi ha risposto: «Sciocchezze, se non vuole scendere ditele che sono io a volerlo, e se si oppone ditele che davanti a un comportamento così insubordinato verrò io a prenderla.» «Non voglio certo che si disturbi», risposi. «Scenderò se non se ne può fare a meno, ma non mi va.» Fu con una certa trepidazione che vidi approssimarsi il momento in cui sarei comparsa con la mia allieva in salotto. Dopo aver saputo che la sera sarebbe stata presentata alle signore, Adele era caduta in estasi e si tranquillizzò un poco solo quando Sophie cominciò a vestirla per l'occasione. A quel punto, l'importanza dell'operazione la calmò rapidamente e, con i capelli raccolti in una bella cascata di riccioli, il vestitino di raso rosa con la lunga fusciacca annodata e i guantini di pizzo, prese l'aria solenne di un magistrato. Non ci fu bisogno di dirle di fare attenzione a non sporcarsi. Una volta agghindata, si sedette composta sulla sua seggiolina, non prima di aver sollevato la gonna di raso per timore di stropicciarla, e mi assicurò che non si sarebbe mossa di lì finché non fossi tornata pronta anch'io. Non ci misi molto. Mi infilai in un baleno il mio abito migliore, mi ravviai i capelli e mi appuntai sul petto l'unico gioiello in mio possesso, la spilla di perle. A quel punto scendemmo. Per fortuna si poteva accedere al salotto da un'altra porta senza passare per il salone dove erano riuniti a cenare tutti quanti. Trovammo la stanza deserta, con un gran fuoco che ardeva silenziosamente nel caminetto di marmo e le candele scintillanti e solitarie tra gli splendidi fiori che adornavano i tavoli. Adele, che sembrava ancora tutta presa dalla solennità del momento, si sedette sullo sgabello che le indicai senza dire una parola. Io mi appartai sul sedile sotto una finestra, presi un libro da un tavolino e cercai di leggere. Adele avvicinò lo sgabello per accoccolarsi ai miei piedi e dopo un po' mi toccò un ginocchio. «Cosa c'è, Adele?» «Posso prendere uno di quei bellissimi fiori, mademoiselle? Seulement pour compléter ma toilette.» «Ti preoccupi troppo della tua toilette, Adele, ma un fiore...» «Sì, puoi prenderlo.» Tolsi una rosa da un vaso e gliela puntai sulla fusciacca. Non riuscii a trattenere un sospiro di ineffabile soddisfazione, come se fosse al colmo della gioia. Non riuscendo a trattenere un sorriso, mi volsi dall'altra parte. C'era qualcosa di ridicolo e allo stesso tempo penoso nel culto innato e zelante che la piccola parigina aveva per l'eleganza. A quel punto si sentirono gli ospiti alzarsi da tavola. Qualcuno scostò la tenda e apparve la sala da pranzo con il lampadario acceso che spandeva la sua luce sull'argenteria e i cristalli di un magnifico servizio da dessert disposto sul lungo tavolo. Un gruppo di dame si fermò un attimo sotto l'arco, poi lo varcò e la tenda ricadde alle loro spalle. Erano solo 8, ma per un motivo o per l'altro, avanzando tutte insieme, davano l'impressione di essere molte di più. Alcune di loro erano altissime, in gran parte erano vestite di bianco e indossavano vesti ampi e fruscianti che ne esaltavano la figura, come fa l'alone di foschia intorno alla luna. Mi alzai e feci un inchino. Un paio risposero con un cenno del capo, le altre si limitarono a fissarmi. Le tre che si distinguevano di più, forse perché erano le più alte, erano la vedova di Lord Ingram e le sue figlie, Blanche e Mary. Lady Ingram aveva i tratti di una matrona romana e un doppio mento che si fondeva con un collo poderoso come una colonna, lineamenti che mi parvero non solo gonfi e privi di luce, ma perfino segnati da tanta fierezza. La stessa fierezza che sosteneva il mento, tenendolo sollevato in una posizione quasi naturale. Anche gli occhi erano duri e spietati e mi ricordavano quelli della signora Reed, la mia benefattrice. Parlava in tono enfatico, con voce profonda e una cadenza tronfia e dogmatica. Insopportabile, insomma. Un abito di velluto cremisi, una sciarpa indiana in tessuta d'oro avvolta a mo' di turbante le davano, o così credeva lei, suppongo, una maestà da autentica imperatrice. Per quanto riguardava la persona della signorina Ingram, corrispondeva in ogni particolare sia al mio ritratto sia alla descrizione della signora Fairfax: il busto nobile, le spalle esili, il collo aggraziato, gli occhi scuri e i boccoli neri, c'erano tutti. Ma il viso? Il viso era come quello della madre, liscio e giovane, ma somigliante in tutto e per tutto. La stessa fronte bassa, la stessa alterigia nei tratti, la stessa fierezza, seppure non così cupa. Rideva continuamente. La sua era una risata sarcastica e tale era anche l'espressione abituale delle labbra, arcuate e sprezzanti. Si mise a discutere di botanica con la mite signora Dent, una scienza che a quanto pare la moglie del colonnello non aveva studiato, anche se, disse, le piacevano i fiori, soprattutto quelli selvatici. La signorina Ingram invece l'aveva studiata e sciorinò tutto il vocabolario, dandosi aria da esperta in materia. Mi accorsi quasi subito che, come si suol dire, stava menando la signora Dent per il naso. Insomma, si stava burlando della sua ignoranza. Un gioco intelligente, forse, ma decisamente perfido. Ero convinta, a quel punto, che la signorina Ingram fosse una scelta plausibile per Rochester. Impossibile rispondere. Ignoravo i suoi gusti in fatto di bellezza femminile. Se gli piacevano le donne maestose, la Lady Maestà ne aveva da vendere, e poi era piena di talento e di brio. La maggior parte degli uomini, ritenevo, l'avrebbero ammirata, e dell'ammirazione che Rochester nutriva per lei avevo già avuto prova. Per spazzar via ogni dubbio, non rimaneva che vederli insieme. «Ma dov'è il signor Rochester? Eccolo, finalmente!» Anche senza avere lo sguardo rivolto verso l'arco, lo vedo entrare e inevitabilmente mi torna alla memoria l'ultima volta che l'ho visto, subito dopo che gli avevo reso quello che a lui era parso un servizio essenziale, e lui, tenendomi la mano e chinando lo sguardo su di me, mi aveva contemplata con occhi che rivelavano un cuore traboccante di emozione. E quelle emozioni mi riguardavano. come gli ero stata vicina in quel momento. Che cosa era stato poi a mutare la nostra posizione reciproca? Quanto eravamo distanti? Quanto eravamo estranei l'uno all'altro adesso? Così estranei che io neppure mi aspettavo che mi rivolgesse la parola. Perciò non mi stupii quando, senza guardarmi, si sedette all'altro capo della stanza e si mise a conversare con alcune delle signore. Non appena fui certa che la sua attenzione era tutta per loro e che potevo guardare senza essere osservata, i miei occhi furono attratti, senza volerlo, verso il suo viso. Non riuscivo a controllare le palpebre che inevitabilmente si alzavano permettendo alle iridi di fissarsi su di lui. Guardavo e guardando provavo un piacere acuto, un piacere prezioso e allo stesso tempo struggente, oro puro con una punta d'acciaio di agonia. Il piacere di un uomo quasi morto di sete che sa che il pozzo a cui si è trascinato è avvelenato e tuttavia si china a bere quelle sorsate divine. Viene servito il caffè. Le signore, dal momento in cui sono entrati gli uomini, si sono animate come allodole. La conversazione si è fatta allegra e vivace. Il colonnello Dent e il signor Ashton discutono di politica. Le mogli ascoltano. Le due vedove, Lady Lynn e Lady Ingram, confabulano tra loro sullo stesso divano. Rochester, abbandonate le sorelle Ashton, si è fermato vicino al caminetto, da solo. La signorina Ingram allora prende posizione sull'altro lato del camino e lo apostrofa. «Credevo che non vi piacessero i bambini, signor Rochester. Infatti. E allora che cosa vi ha indotto a occuparvi di quella pupattola?» indicando Adele. «Dove siete andato a pescarla?» «Non sono andato a pescarla, me l'hanno lasciata tra le mani. Avreste dovuto metterla in collegio». Non me lo sono potuto permettere, i collegi sono troppo cari. Santo cielo, immagino che abbiate assunto un'istitutrice. Poco fa ho visto una persona con lei. È andata via? Ah no, eccola lì, dietro la tenda della finestra. La pagherete, naturalmente, e credo vi costi altrettanto, se non di più, perché dovete mantenerle tutte e due. Temevo, o devo dire che lo speravo, che l'allusione alla mia persona avrebbe indotto il signor Rochester a guardare dalla mia parte e involontariamente mi ritrassi ancora di più, ma lui non volse gli occhi. «Non ho preso in considerazione la cosa», disse poi con indifferenza, guardando dritto davanti a sé. «E certo, voi uomini non badate mai alle questioni di economia e di buon senso. Dovreste sentire la mamma sul capitolo istitutrici. La signorina Ingram», che a quel punto si era seduta con la sua grazia altera al piano, dispiegando le vesti candide in tutta la loro ampiezza regale, cominciò a suonare un brillante preludio, continuando tuttavia a partecipare alla conversazione. Quella sera non faceva che mettersi sul piedistallo. Le sue parole e anche il suo atteggiamento sembravano voler destare non solo l'ammirazione, ma anche lo stupore dei suoi ascoltatori. Evidentemente mirava a colpirli con un comportamento affascinante e allo stesso tempo audace. «Ah, sono stanca dei giovanotti del giorno d'oggi!» esclamò, continuando a pestare le dita sullo strumento. «Poveri piccoli, non sono in grado di fare un passo oltre i cancelli del parco di papà, e se lo fanno è solo perché la mamma dà loro il permesso e li accompagna. Tutti concentrati sui loro bei faccini, le loro mani bianche, i loro piedini, come se un uomo avesse qualcosa a che fare con la bellezza, come se la grazia non fosse una prerogativa esclusiva della donna, il suo legittimo appannaggio e la sua dote. Una donna brutta, lo ammetto, è una macchia sul volto perfetto del creato, Ma se parliamo di uomini, lasciate che si preoccupino di mostrare forza e valore e che il loro motto sia cacciare, colpire, combattere, il resto sono bubbole. Questa sarebbe la mia massima se fossi un uomo. Se un giorno mi sposerò, continuò dopo un silenzio che gli altri si guardarono bene dall'interrompere, non voglio assolutamente che mio marito sia un rivale per me, voglio che il contrasto tra me e lui mi faccia risaltare ancora di più. Non ammetto concorrenti accanto al trono, pretendo un tributo esclusivo e non dividerò certo la sua devozione con l'immagine che gli rimanda allo specchio. Adesso cantate, Rochester, e io suonerò per voi. Sono l'obbedienza in persona, fu la risposta. Ecco qui un canto dei corsari, sappiate che li adoro, dunque cantate con spirito. Un ordine uscito dalle labbra della signorina Ingram metterebbe dello spirito anche in una tazza di latte annacquato. Fate attenzione allora, se non sarò soddisfatta di voi vi umilierò mostrandovi come si fa. Ma è come offrire un premio all'incapacità, ora farò apposta a sbagliare. Se sbaglierete di vostra volontà escogiterò una punizione adeguata. La signorina Ingram dovrebbe essere clemente perché ha il potere di infliggere castighi insopportabili per un comune mortale. Spiegatevi, ordinò lei. Perdonatemi, signora, non c'è bisogno che vi spieghi. Il vostro intuito così sottile vi dirà che una sola delle vostre occhiatacce equivale a una pena capitale. Cantate, disse lei, e posando nuovamente le dita sui tasti iniziò ad accompagnare con gran vigore. Questo è il momento giusto per svignarsela, pensai, ma le note che in quel momento tagliarono l'aria mi fermarono. La signora Fairfax aveva detto che Rochester aveva una bella voce, ed era vero. Una voce di basso, calda e potente, in cui riversava tutto il suo sentimento e la sua forza, e che dall'orecchio arrivava giù, fino al cuore, risvegliandovi strane sensazioni. Attesi che l'ultima vibrazione, piena e profonda, si fosse esaurita e che la marea di chiacchiere, interrotta per un istante, salisse nuovamente, e a quel punto abbandonai il mio angolo appartato uscendo dalla porta laterale, che per fortuna era vicina. Di lì uno stretto corridoio portava nell'atrio. Percorrendolo mi accorsi che mi si era slacciato un sandalo e mi fermai per allacciarlo, inginocchiandomi sulla stuoia ai piedi della scala. Allora udii la porta della sala da pranzo che si apriva per lasciare uscire un uomo e quando mi rialzai in fretta e furia mi trovai faccia a faccia con lui. Era Rochester. «Come state?» chiese. «Benissimo, signore. Perché non mi avete rivolto la parola in salotto?» Pensai che avrei dovuto domandargli la stessa cosa, ma non mi presi la libertà di farlo e risposi invece... Non volevo disturbarvi, signore, sembravate occupato. Che cosa avete fatto durante la mia assenza? Niente di particolare. Ho fatto lezioni ad Adele, come al solito. E siete diventata molto più pallida. Me ne sono accorto subito. Che succede? Assolutamente nulla, signore. Vi siete buscata un raffreddore la notte che avete cercato di annegarmi? Per niente. Tornate in salotto, è troppo presto per andare via. Sono stanca, signore. Mi osservò per un minuto. È un po' triste, notò. Perché? Ditemi. Niente, signore, non sono triste. E io invece dico di sì, al punto che basterebbero ancora poche parole per farvi venire le lacrime agli occhi. Anzi, eccole lì, luccicanti e pronte a sgorgare. E una goccia si è staccata dal ciglio ed è caduta sul pavimento. Se avessi tempo e se non temessi mortalmente l'arrivo di qualche domestico in piccione curioso, pretenderei di sapere cosa significa tutto ciò. Bene, per stasera siete scusata, ma sappiate che finché rimarranno i miei ospiti, mi aspetto di vedervi con noi in salotto ogni sera. È quello che desidero, non dimenticatevene. Adesso andate e dite a Sophie di venire a prendere Adele. Buonanotte, mia... Si interruppe, mordendosi il labbro, e se ne andò bruscamente. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.